Nasce la nuova collaborazione tra OpenDDB e il Cinema Galliera. E innanzitutto, come nasce questa collaborazione e qual è il suo intento? Allora, noi con il Cinema Teatro Galliera collaboriamo da diversi anni. Abbiamo portato in sala sia film prodotti da noi che distribuiti da noi, quindi di altre autrici e autori del nostro catalogo di OpenDDB. Si è andato consolidando in questi ultimi 18 mesi una relazione più in profondità e arriviamo oggi sul 2023 con una stabilizzazione di questo rapporto e con una vera e propria programmazione che coprirà tutto il periodo gennaio-giugno e poi verrà riaggiornata. E verranno presentate diverse produzioni nella sala, ma come sono state selezionate? Considera che noi, oltre che essere produttori cinematografici, quindi anche con i nostri film, verremo qui anche nei prossimi mesi con uno dei nostri film in produzione che si chiama La Cura e di Teresa Sala, che è una nostra autrice, e per il resto OpenDDB nasce come catalogo di autrici e autori indipendenti, quindi abbiamo tutti i mesi molte novità anche in streaming, perché nasce ufficialmente 10 anni fa come canale streaming, ma che oggi appunto porta nelle sale italiane e in particolar modo nel Cinema Teatro Galliera tutta una serie di opere di diverse tematiche, dove il filo conduttore è cinema indipendente a tematica sociale, e quindi la selezione viene fatta mese per mese a seconda sia delle opere che arrivano sia delle urgenze tematiche. E quindi si possono già citare alcuni esempi tra le produzioni proposte? Esattamente, sul tema delle urgenze tematiche, ad esempio noi questo giovedì 19 gennaio faremo la prima italiana in sala di E tu come stai? Di Filippo Merrigori, che è un documentario prodotto nel 2022 sulla vicenda della lotta delle operaie e delle operaie della GKN di Firenze. Quindi queste sono le corde, diciamo, di quello che fa OpenDDB.